Le madri incontentabili. Si aprì la porta. Un passo risuonò in anticamera. Dalla cucina la voce della mamma: «Stefano, sei tu?» «Sì, mamma, sono io.» «E allora?» «E allora cosa?» «Beh, l'hai avuto questo benedetto aumento?» «L'ho avuto, sì.» «Quanto?» Lui in camera sta cambiandosi le scarpe madide di pioggia. «Quanto che cosa?» «Quanto di aumento, dico?» 3.500. 3.500? Sì. E sei contento? Beh, insomma. Un silenzio. Poi la stessa voce materna più vibrata. «Oh, Stefano, con tutto quello che lavori, 3.500. Gli altri scommetto che hanno avuto di più. Dimmi, sai quello che hanno avuto gli altri?» «Ma no, non so niente. Nessuno parla di queste cose in ditta.» «A figurarsi! Tu sei quello che ha avuto meno di tutti, garantito! Tu sgobbi più di tutti, tu sei zelante e tutti naturalmente ne approfittano! Non c'è nessuno in ditta, neanche tra i vecchi, che valga come te, ma tu non ti sai far valere, tu sei un pulcino nella stoppa e così gli altri ti bagneranno sempre il naso! Ecco, ecco che cosa vuol dire tenere sempre la testa bassa! Un altro al tuo posto a quest'ora sarebbe capo reparto perlomeno!» «Jeff!» chiamò la mamma dalla sua camera. «Vengo», rispose Jeff Lanna, il famoso gangster, detto Powell, per la sua vecchia specialità di sistemare gli avversari con una coltellata nella pancia. Aveva accompagnato alla porta tre compari dopo una lunga discussione. «Dimmi, Jeff», chiese la donna, intenta a guardare nella via da uno spiraglio della tenda, «di chi è quel macchinone con cui adesso è andato via Costello? È la tua dell'anno scorso?» «Che razza di memoria hai, complimenti! Come hai fatto a riconoscerla?» «E tu gliel'hai regalata?» «Ah no, non gliel'ho regalata.» «Gliel'hai venduta allora?» «Ma insomma, qualcosa del genere.» «Ecco, ho ragione io, tu gliel'hai proprio regalata.» «E se anche fosse?» «E se anche fosse, tu saresti un imbecille, come al solito. Non sei tu il capo? Sei tu che hai le idee, sei tu che rischi più di tutti. Senza di te quei disgraziati potrebbero andare in giro a vendere candelotti e noccioline. E intanto quelli ti vivono alle spalle. È inutile, tu sei sempre stato troppo buono. Basta che uno venga da te a piagnucolare, tu immediatamente ti commuovi. Tu che da solo potresti farli fuori. Quanti sono? Succhioni sono, parassiti, profittatori, ecco che cosa sono. E tu invece sei un bamboccione, sei un ingenuo tu, un fesso. Lasciatelo dire dalla tua mamma.» Ed ecco la madre di Sesostri. Risaliamo un po' nel tempo, che lo aspetta sulla soglia della reggia al ritorno dalla guerra. Suonano le fanfare. Due immense ali di popolo inneggiano al faraone vittorioso. «Sì, non si può negare, è stato nel complesso un bel trionfo», dice la vecchia regina, «ma ti confesso che mi aspettavo un po' di più, dopo tutto quello che tu hai fatto, io non so, ma che cos'ha oggi la folla?» «Perché? C'è qualche cosa che non va?» «Non so, la gente mi sembra freddina, gridano, si sbracciano, ma si direbbe che lo facciano per forza, insomma, li vorrei vedere più entusiasti.» Fa Sesostri, «bisogna anche tener conto del caldo, guarda che oggi Tebe è un forno.» «E i prigionieri?» chiede ancora la mamma. «Quanti prigionieri hai sacrificato ad Ammone, tuo celeste padre?» 200 ne ho fatti trucidare.» 200? Ma lo sai quanti ne sacrificava Seti quando tornava dalla guerra? E non erano mica guerre come questa, scaramucce erano, scorrerie degne di predoni. Bene, sappi che una volta Seti ne fece sbudellare 5.000 uomini e donne tutti in un sol colpo.» «Ma a me sembrava che 200 ti sembrava. La verità è che tu sei di una ridicola modestia. Tu sei il faraone, tu sei un dio, ricordatelo. Tu hai il dovere di stare al tuo posto. Non puoi lasciare andare a ramengo il tuo prestigio. Qualsiasi altro al tuo posto, chissà che aria si darebbe. Il sangue di 200 prigionieri. Ah, inutile, l'ho sempre detto. Tu non sai farti valere abbastanza, figlio mio.